Terzo anello, ad alta voce. Il gioco delle perle di vetro, di Hermann Hesse. Il nostro abbozzo biografico è arrivato al punto in cui l'attenzione è tutta rivolta allo sviluppo che la vita del maestro prese nei suoi ultimi anni e portò al suo congedo dalla carica e dalla provincia, al passaggio in un'altra cerchia di vita e alla morte. Benché fino al momento del congedo egli abbia svolto i suoi compiti con dedizione esemplare e fino all'ultimo giorno abbia goduto l'affetto e la fiducia dei discepoli e collaboratori, ora, vedendolo intimamente stanco del suo ufficio e rivolto ad altre mete, rinunciamo a proseguire nella descrizione delle sue attività di magister. Aveva superato la cerchia che quella carica offriva all'espansione delle sue energie ed era arrivato là dove le anime grandi abbandonano il sentiero della tradizione e del docile inquadramento e, fidando in poteri supremi e ineffabili, devono tentare il nuovo, il non ancora tracciato e vissuto, e assumersene la responsabilità. In un periodo in cui il suo pensiero aveva già incominciato ad occuparsi della ricerca d'una via che portasse alla libertà, Knecht rivide inaspettatamente un personaggio della sua giovinezza, già familiare e poi mezzo dimenticato, cioè Plinio De Signori. Questo ospite d'un tempo, rampollo di un'antica famiglia benemerita della provincia, uomo influente sia come deputato sia come scrittore politico, comparve un giorno all'improvviso, per ragioni d'ufficio, presso la suprema autorità della provincia. Durante questo primo incontro, dopo decenni di oblio, l'oratore presentò ai maestri, come di consueto, i membri della nuova commissione statale. Quando il nostro udì il nome di De Signori, restò meravigliato, anzi confuso per non aver ravvisato al primo sguardo il compagno dei lontani anni giovanili, mentre, rinunciando all'inchino ufficiale e alla formula di rito, gli porgeva amichevolmente la mano, lo guardò in viso e cercò di scoprire quali trasformazioni fossero state causa del mancato riconoscimento. Anche durante la seduta, il suo sguardo si posò più volte su quel viso che gli era stato così familiare. De Signori, però, gli aveva rivolto la parola col voi e col titolo di magister, sicché Knecht dovette pregarlo due volte prima che quello si risolvesse a parlargli come una volta e a dargli ancora del tu. A suo tempo, Knecht aveva visto in Plinio un giovane impetuoso e allegro, comunicativo e brioso, un buon allievo e, nello stesso tempo, un uomo di mondo che si sentiva superiore ai giovani asceti della Castalia e spesso si divertiva a provocarli. Ora invece pareva un altro. Soprattutto sembrava che avesse interamente abbandonato o perduto la sua allegria, la gioia di comunicare, di discutere, di conversare, il suo carattere energico, espansivo e cattivante. E mentre il maestro del gioco delle perle seguiva il dibattito, una parte della sua attenzione era sempre rivolta all'amico, chiedendosi di quale natura potesse essere il dolore che dominava e aveva segnato quell'uomo così vivace, bello e contento di vivere. Doveva essere un dolore lontano, a lui sconosciuto, e quanto più egli si immergeva in queste ricerche e riflessioni, tanto più si sentiva attratto, con simpatia e pietà, verso il sofferente. Anzi, in quella sua pietà e in quell'affetto, si insinuava l'impressione di dovere qualcosa a quel così triste amico di giovinezza, qualche riparazione. Dopo aver fatto e ripudiato alcune ipotesi sulla causa della tristezza di Plinio, gli venne l'idea che il dolore impresso su quel volto non fosse di origine volgare, ma fosse un dolore nobile, forse tragico, e la sua espressione fosse di una specie ignota in Castalia, e ricordò di aver visto talvolta qualcosa di analogo in visi non castali, ma di uomini di mondo, sia pure in misura meno forte e attraente. Egli pareva non solo significativo che il mondo avesse mandato là quell'amico perduto e che Plinio e Joseph, come un tempo nelle loro dispute scolastiche, così ora rappresentassero validamente l'uno il mondo, l'altro l'ordine. Alla fine, alcuni mesi dopo quel primo incontro, De Signori aveva accettato l'invito, più volte rinnovato, di fare una visita a Waldzell. Un pomeriggio d'autunno, con nuvole e vento, i due si avviarono attraverso il paese incontro ai luoghi della loro scuola e amicizia. Knecht, tranquillo e sereno, il suo ospite e compagno, silenzioso ma irrequieto, simile ai campi deserti fra sole e ombra, incerto fra la gioia del ritorno e la malinconia di sentirsi diventato estraneo. «Contavo di farti vedere tante cose», disse il magister, «e ora non ho fatto in tempo. Per esempio il mio bel giardino, e poi tante altre cose. Spero che se ne presenterà l'occasione. In ogni caso, da ieri in qua, hai potuto controllare alcuni ricordi e farti anche un'idea dei miei doveri d'ufficio e della mia vita quotidiana». «Ed io te ne sono grato», rispose Plinio. «Soltanto oggi ho ripreso a intuire che cosa sia la vostra provincia e quali grandi e strani misteri contenga, benché anche negli anni della mia lontananza abbia pensato a voi molto più di quanto tu non abbia potuto supporre. Oggi, Joseph, mi hai concesso di farmi un'idea del tuo ufficio e della tua vita. Spero che non sia stata l'ultima volta, e in seguito riparleremo ancora di ciò che ho visto qui e di cui, per ora, non posso parlare. D'altro canto, capisco che la tua fiducia impegna anche me, e so quanto il mio riserbo precedente abbia dovuto stupirti. Ebbene, anche tu verrai un giorno a trovarmi e vedrai dove abito. Per ora te ne potrò parlare in breve, quanto basta perché tu sia informato, e questo discorso recherà anche a me qualche sollievo, ancorché mi sembri un'umiliazione e un castigo. Io vengo, tu lo sai, da una famiglia antica, benemerita del paese e amica della vostra provincia, una famiglia conservatrice di proprietari di terre e di alti funzionari. Ma questa semplice comunicazione mi pone davanti all'abisso che ci divide. Dico famiglia, e credo di dire con ciò qualcosa di semplice, di ovvio e univoco. Ma è proprio così? Voi della provincia avete il vostro ordine e la gerarchia, ma non avete famiglia. Non sapete che cosa sia la famiglia, il sangue, l'origine. Non avete idea dei misteriosi poteri e della grande magia di ciò che chiamiamo famiglia. Ebbene, questa è in fondo la sorte delle parole e dei concetti nei quali si esprime la nostra vita. La maggior parte di quelli che sono importanti per noi non lo sono per voi. Moltissimi ci riescono incomprensibili e altri hanno, ai vostri occhi, un significato tutto diverso che per noi. E così si dovrebbe discorrere insieme. Ecco, quando tu mi parli, è come se mi parlasse un forestiero, ma un forestiero del quale, nei miei anni giovanili, ho imparato e anche parlato la lingua, tanto è vero che ne comprendo la maggior parte. Viceversa, quando io ti parlo, tu ascolti un linguaggio le cui espressioni ti sono note soltanto a metà e del quale ignori le sfumature e le vibrazioni. Vedendo che l'amico taceva un istante, sopra pensiero, Knecht affermò timidamente: «Non è poi così grave il non potersi comprendere. Ma anche se tu fossi occidentale e io cinese, anche se parlassimo lingue diverse, ciò nonostante, essendo animati da buona volontà, potremmo comunicarci moltissime cose e, oltre a quelle interamente comunicabili, indovinare e intuire moltissimo l'uno dell'altro. Comunque sia, sarà bene tentare». De Signori approvò con un cenno e proseguì: «In primo luogo ti voglio dire quel poco che devi sapere per farti un'idea approssimativa della mia situazione. C'è dunque innanzitutto la famiglia, il supremo potere nella vita di un giovane, la riconosca o no. Io devo dire di essermici trovato bene, finché ero ospite delle vostre scuole scelte. Ero anch'io quasi un cittadino di Castalia, forse un tantino più amante del mondo, più rude e superficiale, ma pieno di esuberanza beata, di slancio e di entusiasmo. Fu il periodo più felice della mia vita, benché allora non lo immaginassi nemmeno, perché in quegli anni di Valzel mi ripromettevo la felicità più alta della mia esistenza, dal periodo in cui, licenziato dalle vostre scuole, sarei ritornato a casa e, con l'aiuto della superiorità acquisita da voi, avrei conquistato il mondo di laggiù. Invece, dopo averti lasciato, incominciò per me una intima discussione che ancora non si è conclusa e una battaglia nella quale non fui vincitore. Infatti, il paese nel quale ritornai non era più limitato alla mia casa paterna e non era certo lì ad aspettare per abbracciarmi e riconoscere la mia eccellenza valzellese, e d'altro canto persino nella casa paterna incontrai tosto delusioni, difficoltà e stonature. Mi ci volle parecchio tempo per accorgermene. Mi facevano da scudo la mia ingenua fiducia, la puerile fede in me stesso e nella mia fortuna, nonché la morale dell'ordine inculcatami a Valzel e la consuetudine della meditazione. Ma quale disincanto, quale doccia fredda fu per me la scuola superiore nella quale contavo di studiare materie politiche. Il tono dei discorsi fra studenti, il livello della loro cultura generale e delle loro riunioni, la personalità di alcuni insegnanti, quanto si distaccavano da ciò che avevo visto tra di voi. Dopo una breve pausa, Plinio continuò. Non so se la mia vita sia stata inutile e tutta un malinteso o se abbia senso. Qualora lo avesse, potrebbe essere questo. Che un individuo concreto del nostro tempo ha conosciuto e vissuto nel modo più evidente e più doloroso quanto la Castalia si sia allontanata dalla sua terra di origine o viceversa, quanto il nostro paese si sia straniato e allontanato dalla sua provincia più nobile e dallo spirito di essa, quanto nel nostro paese corpo e anima, ideale e realtà, siano divergenti, quanto poco sappiano e vogliano sapere l'uno dell'altra. Se nella vita ho avuto un compito e un ideale, fu quello di fare della mia persona una sintesi dei due principi, di essere loro mediatore, interprete e conciliatore. Ho fatto questo tentativo e ho fallito. Difficile e forse impossibile fu invece, in mezzo alla mondanità, seguitare a vivere in senso Castalio. Ma la protezione conferitami dalla Castalia risultò pericolosa e dubbia, poiché non volevo certo conservare da eremita rassegnato la pace del mio spirito e la mia tranquillità meditativa, bensì conquistare il mondo, comprenderlo, costringerlo a comprendere anche me. Volevo accettarlo e pretendevo, semmai, di rinnovarlo e migliorarlo, desideroso com'ero di fondere e conciliare nella mia persona il mondo e la Castalia. Il mondo fu più forte di me e a poco mi sopraffece e mi assorbì, come se la vita dovesse prendermi in parola e io dovessi adeguarmi al mondo del quale, nelle nostre dispute di Walzel, avevo tanto esaltato e difeso contro la tua logica, la giustizia, l'ingenua naturalezza, la forza e l'antica superiorità. Ricordi? E ora, alcuni anni dopo, mi feci coraggio un'altra volta. Mi iscrissi a un corso tenuto dal tuo predecessore e feci del mio meglio per rendermi relativamente presentabile a Walzel. Così entrai a Walzel, dove, dopo l'intervallo di pochi anni, mi sentii parecchio più estraneo, ma anche affascinato, come ritornando in una bella patria perduta, della quale però non sapessi più parlare speditamente il linguaggio. E questa volta fu appagato anche il mio vivo desiderio di rivederti. Ricordi ancora, Josef? Knecht lo guardò negli occhi, approvò e sorrise, ma non disse una parola. Bene. Dunque ricordi. Ma che cosa ricordi? Un fugace incontro con un compagno di scuola e una delusione. Si passa oltre e non ci si pensa più, salvo che, dopo decenni, l'altro non ce lo rammenti sgarbatamente. Non è così? Fu una cosa diversa. Fu qualcosa di più per te. Benché facesse evidenti sforzi per dominarsi, si era infervorato e pareva che qualcosa di non smaltito da molti anni stesse per scaricarsi. Tu precorri gli eventi, disse Knecht, molto guardingo. Che cosa sia stato per me diremo in seguito, quando sarà la mia volta di render conto. Adesso, Plinio, tocca a te parlare. Vedo che quell'incontro non ti è stato gradito. Non lo fu allora neanche per me. E adesso continua a raccontare. Parla senza riguardi. Proverò, disse Plinio. Non voglio certo farti rimproveri. Devo anche ammettere che allora ti comportasti con perfetta correttezza, anzi, dirò di più. Quando accettai il tuo invito di venire a Walzel, che non avevo più riveduta dopo quel corso estivo, anzi, fin da quando accettai la nomina a membro della commissione per la Castalia, avevo intenzione di affrontare, fosse gradevole o no, te e l'esperienza di allora. Arrivai per il corso delle vacanze e fui alloggiato nella foresteria. Il corso fu e rimase un grigio corso di ripetizione per scolaretti adulti. I giorni passavano, la delusione aumentava. Ora, oltre al gioco delle perle, c'era anche Walzel, luogo per me di sacre memorie, sicché, fallito il corso, mi rimaneva pur sempre la festa di un ritorno, il contatto con i compagni d'una volta, forse anche l'occasione di rivedere quel compagno del quale conservavo i più numerosi e più profondi ricordi, di colui che per me valeva più di qualunque altro personaggio della nostra Castalia. L'occasione di rivedere te, Josef. Thank you. E ora, vedendo apparire te, Joseph, sentì rinascermi la gioia, accompagnata da una nuova speranza. Tu attraversavi il cortile, ti riconobbi dal passo e ti chiamai subito per nome. Finalmente un uomo, pensai, finalmente un amico, o forse anche avversario, ma uno col quale si può parlare, Castalio della più bell'acqua, ma senza che il carattere Castalio sia irrigidito in una maschera e in una corazza. Uomo capace di comprendere. Tu certo ti accorgesti come fossi contento e quanto mi aspettassi da te. Tanto è vero che mi venisti incontro con la massima affabilità. Ancora mi conoscevi, ancora ero qualcosa per te e ti dava gioia rivedere la mia faccia. Perciò non ti fermasti al breve e lieto saluto nel cortile, ma mi invitasti e mi offristi, mi sacrificasti una sera. Però, caro Knecht, quale sera fu quella? Se tu mi avessi sgridato e fatto rimproveri, se mi avessi affrontato, che cosa è avvenuto di te, amico? Come hai potuto cadere così in basso? Sarei stato felice e avremmo rotto il ghiaccio. Niente, invece, di tutto ciò. Vedi che la mia appartenenza alla Castalia, il mio affetto per voi, la mia applicazione al gioco delle perle, come pure il nostro cameratismo, andavano in fumo. Knecht, il ripetente, aveva accettato la mia molesta visita a Walzel. Si era annoiato una sera con me e ora, con molti complimenti, mi mandava via in maniera irreprensibile. Cercando di dominare l'agitazione, De Signori si interruppe e guardò il magister con aria tormentata. Questi era tutto orecchi, ma calmissimo, e guardava il vecchio compagno con un sorriso pieno di amichevole interessamento. Poiché l'altro non continuava, Knecht lo fissava con molta benevolenza e con un'espressione soddisfatta, anzi divertita, alla quale l'amico accigliato tenne testa per un minuto o più. «Tu ridi», esclamò poi con forza ma senza ira. «Tu ridi! Ti pare che sia tutto normale?» «Devo dire», fece Knecht sorridendo, «che hai descritto il fatto in modo eccellente. È andata proprio come tu affermi, anzi, ci voleva forse quel poco di accusa e di risentimento nella tua voce per esprimere e ripresentarmi la scena in maniera così perfetta. Infatti, ho provato da capo tutta l'oppressione e l'imbarazzo di quella strana serata. Di nuovo ho ritenuto, per qualche momento, di dover lottare per darmi un contegno e un poco mi sono anche vergognato per entrambi. Sì, sì, il tuo racconto è stato fedelissimo e assai efficace. Fa piacere sentir raccontare così. Adesso però, disse Knecht, adesso vedi con quanta serenità si possa considerare questa storia, della quale certo non è il caso di gloriarci. Adesso ne possiamo ridere. Ridere. Perché? Perché questa storia di Plinio, il quale si affanna per il gioco delle perle e per il riconoscimento da parte dei compagni di una volta, è passata e liquidata, come quella del cortese ripetente Knecht, che nonostante le forme castalie, non seppe nascondere il suo imbarazzo. Tant'è vero che quel Plinio, piovuto dal cielo dopo tanti anni, poté rievocarglielo come in uno specchio. Ripeto, Plinio, hai un'ottima memoria e hai raccontato bene. Io non avrei saputo farlo così. Fortunati noi che questa storia sia liquidata e si possa riderne. Oggi, tuttavia, mi pare che la nostra situazione sia questa. Nella prima giovinezza fummo amici, poi separati, prendemmo vie molto diverse. Quindi ci incontrammo di nuovo in occasione di quel tuo infelice corso estivo. Tu eri diventato un uomo di mondo, io un valzellese un poco presuntuoso e attaccato alle forme castalie. E oggi abbiamo ricordato la delusione e l'umiliazione di quell'incontro, riveduto noi stessi e l'imbarazzo di allora, e siamo stati capaci di sopportare quella vista e di ridere, perché oggi tutto è mutato. Allora ci urtammo reciprocamente i nervi. Non potevamo che separarci, perché nessuno aveva alcunché da dire all'altro, né era capace di rendergli giustizia. Oggi invece, Plinio, abbiamo potuto rievocare il ricordo pudicamente sepolto e possiamo ridere di quella scena e di noi due, perché ci siamo incontrati diversi da allora e con ben altre intenzioni e possibilità, senza sentimentalismi, senza repressi conati di odio o di gelosia, senza presunzioni, perché ormai, in una parola, ci siamo fatti uomini. Daniela Di Giusto ha letto Il gioco delle perle di vetro di Hermann Hesse, riduzione di Giovanni Piccioni, regia di Adelchi Battista, coordinamento di Fabiana Carobolante, il terzo anello @rai.it.